Vangelo di Giovanni, capitolo 20. Ora il primo giorno della settimana, la mattina per tempo, mentre era ancora buio, Maria Maddalena venne al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse e venne da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Han tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto». Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono e si avviarono al sepolcro. Correvano ambedue assieme, ma l'altro discepolo corse innanzi più presto di Pietro e giunse primo al sepolcro e, chinatosi, vide i pannilini giacenti, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide i pannilini giacenti e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non giacente coi pannilini, ma rinvoltolato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto primo al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa, ma Maria se ne stava di fuori presso al sepolcro a piangere. E mentre piangeva si chinò per guardare dentro al sepolcro ed ecco vide due angeli vestiti di bianco seduti uno a capo e l'altro ai piedi là dove era giaciuto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Ella disse loro: «Perché han tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano posto». Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai posto e io me lo prenderò». Gesù le disse: «Maria». Ed ella, rivoltasi, gli disse in ebraico: «Rabbuni», che vuol dire «maestro». Gesù le disse: «Non mi toccare, perché non sono ancora salito al Padre, ma va da miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e al Padre vostro, all'Iddio mio e all'Iddio vostro». Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva veduto il Signore e che le aveva detto queste cose. Or la sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, ed essendo per timore dei giudei serrate le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, Gesù venne e si presentò quivi in mezzo e disse loro: «Pace a voi». E detto questo, mostrò le mani e il costato. E i discepoli dunque, com'ebbero veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi». E detto questo, soffiò su loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti». Or Toma, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo veduto il Signore». Ma egli disse loro: «Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò». E 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa, e Toma era con loro. Venne Gesù a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Toma: «Porgi qua il dito, e vedi le mie mani, e porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente». Toma gli rispose e disse: «Signor mio, Dio mio». Gesù gli disse: «Perché m'hai veduto, tu hai creduto? Beati quelli che non han veduto e hanno creduto». E Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figliuolo di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome.